Contro la noia, contro la paura, ascoltiamo Due di Denari con i due antivirus, Meassa e Larosciani. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Non lavora, non fa l'amore, questo mi ha detto ieri mia moglie. A casa stanco ieri ritornai. Buongiorno Deborah, come stai? Sto molto bene, grazie, ma abbiamo dovuto scomodare Celentano questa mattina per introdurre la trasmissione di oggi, come mai? Un Celentano dannata, con l'apostrofo naturalmente, di apostrofo annata, nel 1970 andò a Sanremo e stupì le platee anche televisive con questo brano che veniva un po' a celebrare in qualche modo l'autunno caldo. E allora, anche in tempi di smart working, devi sapere, cara Deborah, che ci sono gli scioperi. Perché non ci dovrebbero esserci se non ci sono le intese dal punto di vista sindacale? Allora, che è successo ieri, ad esempio? Domani ci saranno 4 ore di sciopero, salvo che rientrino all'ultimo momento, per 160 dipendenti in un'azienda informatica torinese. Perché sarà uno sciopero in smart working. Dal centro della contesa le modalità con le quali l'azienda ha richiesto la cassa integrazione solo per un numero limitato di dipendenti, quindi secondo i sindacati in questo modo si creano delle disparità inaccettabili tra tutto il personale. Insomma, la sostanza è che ci sarà uno sciopero però in smart working, quindi incrociamo le braccia ma da remoto e sempre mantenendo le distanze, per dir così. E questo è il motivo per cui abbiamo ripescato insieme all'ottimo e sempre presente Marco Lombardo, ancorché da distanza, oggi invece in presenza. Saluto anche da parte tua Luca Cremonese, badante. Grazie. Di prossimità. E poi c'è sempre l'ottimo Andrea Roccabella che mi guarda sornione dai suoi occhiali. Non so perché abbia questo sguardo così, ma non, c'è qualche cosa che non mi convince. Sarà lo sguardo ai tempi del coronavirus, Mauro. D'altronde, dando questa notizia che abbiamo scelto appunto per aprire il nostro programma, mi veniva da pensare, ma quante ancora ne dovremo sentire in questa era così stravagante che stiamo vivendo tutti? Peraltro la decisione di fare questo primo sciopero in smart working è stata presa dall'assemblea dei lavoratori, che naturalmente si è svolta rigorosamente online, erano tutti collegati ma ognuno da casa propria. E quindi anche saranno stati favoriti dal fatto che questa azienda si occupa di informatica e quindi in qualche modo i lavoratori sono più avvezzi a gestire le questioni anche con appunto la videoconferenza, lo smart working e il lavoro agile. Di che parliamo di bello oggi, che è mercoledì? Di lavoratori, naturalmente. Scelto la prima notizia che parlasse di lavoro perché ci potesse dare il pretesto per presentare poi il resto della trasmissione. Allora, nel nostro mercoledì del lavoro, più che andare a caccia di nuovi lavori, dobbiamo spiegare un po' come sta funzionando in questo momento tutta la gamma di ammortizzatori sociali che sono stati messi in pista per sostenere le migliaia di lavoratori che, loro malgrado, stanno incrociando le braccia perché non possono recarsi sul posto di lavoro, perché naturalmente molte aziende hanno notevolmente ridimensionato la propria attività, per poi non parlare di tutti quei lavoratori autonomi che chiaramente, vedendosi azzerare il fatturato, non hanno nessuna entrata e quindi hanno dovuto necessariamente fare ricorso alla provvista che lo Stato ha garantito loro in questo momento, il famoso bonus autonomi da 600 euro. Cosa sta succedendo? Succede che INPS sta erogando molto e quotidianamente appunto si fa il bilancio della situazione, ma molti lamentano di non aver ancora visto niente sul proprio conto corrente. E allora rifacciamo un po' il punto della situazione, ma perché abbiamo anche capito che molti, purtroppo, fate un po' di attenzione, compilano anche male la domanda, addirittura a volte si mette l'IBAN sbagliato, l'IBAN del proprio conto corrente, e quindi l'INPS deve fare un supplemento di istruttoria e chiaramente questo dilata i tempi, per cui per tutti coloro che ancora, ritenendo di avere i requisiti, non hanno ancora ricevuto l'importo sul conto, rifacciamo il punto della situazione sui requisiti che bisogna rispettare per avere il diritto nel fare questa domanda, e parleremo anche poi di tutti gli altri ammortizzatori sociali e di tutte quelle criticità che in questo momento in azienda dell'azienda rendono un po' problematica necessariamente la vita dei lavoratori. E quindi 800 24 00 24 è un numero verde che come sempre vi consente di intervenire in diretta e questa mattina tornare a dialogare con l'ospite con il quale ci siamo trovati molto bene settimana scorsa, per cui l'abbiamo richiamato, Pasquale Staropoli, responsabile della scuola di alta formazione dei consulenti del lavoro. E nel ringraziare Staropoli per la sua disponibilità, 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, però prima di tutto questo, cioè prima di aprire il vasto programma, è il caso di dire appunto delle provviste, date, promesse, non ancora ricevute, insomma in base al decreto Cura Italia e al successivo decreto liquidità, vediamo un pochino di giornale radio del risparmio, cara Debora. Sì. E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. Cominciamo da una notizia che molti diranno, la notizia qual è? Cioè la novità, qual è l'aspetto di novità? L'aspetto di novità è che Facile.it ha provato a calcolare, a stimare qual è il calo, quante famiglie hanno un calo di reddito dovuto al coronavirus. Allora, secondo un'indagine che è stata condotta appunto per Facile.it da MAP Research e Norstat, sono 10 milioni e 800 mila le famiglie che hanno visto calare il proprio reddito, 2 milioni e 223 mila hanno visto sparire, secondo questa indagine, oltre il 50% del reddito familiare, 1 milione e 170 mila hanno perso il 100% delle entrate e amplissimo, come abbiamo detto, il numero delle famiglie che hanno comunque visto un calo di reddito conseguente al coronavirus e all'emergenza coronavirus. Già a livello nazionale un rispondente su 5 a questa indagine, quindi parliamo di un 20% circa, ha dichiarato di trovarsi già oggi in una situazione di difficoltà economica e altri, diciamo il 38%, il 39% hanno dichiarato di non essere ancora in difficoltà economica ma ritengono di potercisi trovare in breve tempo. Questi alcuni dei dati che emergono da questa ricerca. Naturalmente, come potete capire, è una stima, è un'indagine condotta a campione, non pretende di essere rappresentativa di tutta la popolazione italiana, però secondo me, Debora, è una fotografia abbastanza affidabile, sì, di quello che sta succedendo, sì, anche giudicando dai messaggi che molti ascoltatori ci mandano qui a Radio 24, dalle lettere che arrivano alla casella di posta elettronica del Sole 24 Ore, SOS Liquidità, SOS Liquidità, @sole24ore.com. Debora. Sì, è uno dei temi più gettonati che ci capita di affrontare nel nostro sportello reclami, nel pronto soccorso dei due di denari, è quello della sospensione di mutui e prestiti. Allora, come sapete, nel decreto Cura Italia lo Stato ha dato la possibilità anche alle partite IVA di sospendere eventualmente mutui e finanziamenti ricorrendo al cosiddetto fondo Gasparrini, la cui dotazione in termini di risorse appunto è stata ampliata. È un fondo che prima era reso disponibile per le famiglie che con determinati requisiti appunto richiedevano di sospendere il mutuo per la prima casa. Che cosa è successo però? Che ci sono anche delle famiglie che sono in difficoltà e che non presentano le caratteristiche idonee all'accesso del fondo Gasparrini. Quindi l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, ha dato la sua disponibilità a sottoscrivere una nuova moratoria a famiglie con tutte le associazioni dei consumatori italiane. E con questa moratoria adesso c'è la possibilità di sospendere fino a 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui garantiti da immobili e degli altri finanziamenti a rimborso rateale. Per cui non solo mutui ma anche prestiti. Questa sospensione comprende eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020. La sospensione inoltre non determina l'applicazione di alcuna commissione. L'iniziativa, lo segnaliamo, per cui tutti gli interessati potranno andare a cercare informazioni o nel caso le daremo noi, si inserisce nell'ambito della collaborazione fra ABI e associazioni dei consumatori del protocollo d'intesa che si chiama Crediamoci, il tutto a supporto dell'economia del paese, dice un comunicato che è stato diffuso proprio questa mattina, e delle fasce di popolazione maggiormente a rischio di vulnerabilità. Per cui se non avete i requisiti per accendere per accedere al fondo Gasparrini, sappiate che si è ampliata la disponibilità e la possibilità appunto fra banche e consumatori di accedere a questa nuova moratoria, quindi un'ulteriore appunto gamma di opzioni per le persone che non riescono a rispettare l'impegno finanziario mensile, che sia la rata del mutuo, che sia la rata di un prestito. Mauro. Allora vi segnaliamo anche qual è il sito che dovete curare, è www.abi.it, è il sito dell'associazione bancaria, perché da lì appunto vedrete l'elenco nei giorni a venire delle banche che adotteranno questo accordo, e l'elenco sarà pubblicato proprio su questo sito dell'ABI insieme al modello del modulo di domanda per accedere a questa iniziativa. Invece io ti vorrei parlare di un'altra iniziativa che viene intrapresa da due marchi della grande distribuzione, li citiamo, ma diciamo qui non è per fare pubblicità ad alcuno, possiamo citare anche se ci sono iniziative analoghe di altri marchi. Se ci segnalano che dalla prossima settimana sia Coop sia Conad venderanno le mascherine chirurgiche a prezzo calmierato, quelle mascherine a prezzo calmierato così da permettere alla maggior parte della popolazione di dotarsi di questo dispositivo di protezione. Come sai, Deborah, si sta ragionando della fase 2, quella che dovrebbe cominciare diciamo così dai primi giorni di maggio, e in questa fase 2 si pensa che saremo tutti tenuti a indossare le mascherine per muoverci, o almeno per muoverci in certi ambienti, ad esempio per entrare in un negozio potrebbe essere una delle cose più naturali, più logiche, quella di dover tenere la mascherina. Allora le due sigle della grande distribuzione segnalano che hanno fissato un prezzo nazionale 80 centesimi per ogni mascherina chirurgica. Questa sarà la iniziativa di Coop e di Conad. Ripeto, se ci sono altre iniziative da parte di analoghe di sigle della grande distribuzione, siamo qui per riferirle. Ci fa piacere poter segnalare questo tipo di cose. Deborah. Esatto, non siamo più amici di Amazon, ma adesso ritorniamo ad essere amici del commercio tradizionale. No, no, io sono sempre molto amico di Amazon, Deborah. Ma sai, senti, che scuote la testa in segno di assenso dal di là del vetro anche a Roccabella. Roccabella dice cosa che, non lo so, è amicissimo di Amazon anche lui, evidentemente. O vuole partecipare del sontuoso compenso che ci viene assegnato, secondo me è quello che lo muove. Di pure. Voleva partecipare al nostro privilegio. Allora, l'ultima notizia che diamo, questa ovviamente c'è stata pronta segnalata dal massimo esperto mondiale di spostamenti, che è il nostro amico Valerio Vallefuoco, e allora ci ha raccontato di questi 9 magistrati di Aosta, Mauro, che si sono un po' impermaliti per il fatto che non possono troppo liberamente circolare nelle belle zone della Valle d'Aosta, dove segnalano la densità della popolazione è molto bassa, per cui non si capisce per quale motivo non si possa passeggiare con un po' più di libertà rispetto a tante altre zone d'Italia, dove invece evidentemente la concentrazione della popolazione rende un po' meno sicuri, ecco, gli spostamenti, e le persone sono un po' più a rischio contagio. Allora, che cosa hanno fatto questi 9 magistrati? In qualità di cittadini hanno preso carta e penna e hanno scritto alle altre autorità del territorio. Senti un po' qualche passaggio della lettera. Con estremo sconforto, soprattutto morale, abbiamo assistito e ancora assistiamo ad ampi dispiegamenti di mezzi per perseguire illeciti che non esistono, perché è manifestamente insussistente qualsiasi offesa all'interesse giuridico e sociale protetto. Lo affermano appunto in questa lettera questi 9 magistrati, riferendosi al loro territorio, che è quello valdostano, dove molti comuni hanno una densità di popolazione molto limitata a fronte di un territorio in gran parte esteso in zona rurale, e quindi dicono: ma che pericolosità rivestono le condotte di chi, per sopravvivere a questa pesante situazione, avendo la fortuna di abitare in comune montano o comunque in zone isolate, appunto, facciano una passeggiata nei boschi, osando allontanarsi anche per qualche chilometro dalla propria abitazione. E insomma, se lo dicono i magistrati, chissà che non si debba un po' rivedere la regolamentazione delle zone italiane a seconda della località, ovviamente, della quale parliamo. E vedremo che cosa sarà deciso nella fase 2. Per intanto vi ricordo che comunque sono ancora in vigore anche in Valle d'Aosta le limitazioni agli spostamenti, e quindi i magistrati si lamentano, ma effettivamente la norma in vigore in questo momento così prevede. Poi sul corretto funzionamento e sulla logica sottesa, vabbè, su questo si potrebbe aprire un lungo dibattito, ma non è il nostro compito. Invece il nostro compito di ora, cara Deborah, è quello di ascoltare il messaggio che ci è stato lasciato nella nostra casella vocale del DDDD, cioè Dillo a Due di Denari. Dillo a Due di Denari. Buongiorno, mi chiamo Stefano, volevo fare un quesito. Allora, mio figlio gioca a pallacanestro e noi abbiamo pagato la quota annuale che ammonta a 500 euro, che va da settembre a giugno dell'anno successivo. A febbraio, a seguito del coronavirus, sono state sospese tutte le attività fino a data da destinarsi. Allora, posso chiedere alla società il rimborso che va da febbraio a giugno? Grazie mille. Cara Deborah, secondo me l'ascoltatore la questione della palestra può chiedere, poi bisogna vedere cosa gli rispondono. No, nel senso che non esiste una norma in materia, quindi lui può chiedere non avendo usufruito del servizio, però certo diventa complesso poi andare a discriminare se questa restituzione è dovuta oppure no. Certo. Porremo anche questo problema, ma non al nostro esperto di oggi, perché abbiamo già in linea, e innanzitutto lo saluto prima ancora di lanciare la nostra sigla del mercoledì, è Pasquale Staropoli, che come abbiamo detto è responsabile della scuola di alta formazione di consulenti del lavoro. Bentornato, dottor Staropoli. Grazie, bentrovati. Sorrido perché io sono nelle identiche condizioni dell'ascoltatore Stefano che ha chiamato prima. Per la prima volta quest'anno avevo pensato, per evitare confusioni, di pagare tutto all'inizio l'anno di basket di mio figlio, e abbiamo avuto la pandemia, giuro. Ma lei come si è regolato, scusi Staropoli, esatto, perché così diamo un'indicazione anche agli altri utenti. Pensavo di imputarlo l'anno prossimo e scontare i mesi che non ha fatto di scuola basket e di campionato mio figlio. Certo, volendo si può chiedere la restituzione, perché di fatto contrattualmente avremmo una risoluzione per impossibilità sopravvenuta. Però davvero davvero mi viene da sorridere, perché cioè la prima persona che ho sentito non ci crederà nessuno, ma è davvero così. Io farò così, nel senso, tanto se Dio vuole, speriamo, ripartiremo e finirà questa situazione anomala, quindi o imputarlo al prossimo anno oppure si può chiedere la restituzione. Ripeto, come dicevo prima, di fatto c'è stata un'impossibilità della prestazione che non è imputabile a nessuno, però la prestazione non c'è stata, quindi può richiedere il rimborso se ritiene. Il tema, dottor Staropoli, è se poi l'ente è tenuto a questa restituzione oppure può cavarsela dicendo mi spiace, al massimo possiamo venirle incontro. No, è tenuto perché sostanzialmente presumo si tratti, come per mio figlio, che sono ragazzini di 13 anni, partecipano ai campionati, e quello è gratuito, ma fanno anche scuola basket, quindi il pagamento è relativo alla prestazione della istruzione relativa allo sport. Se questo non avviene, ripeto, non gliene si può fare una colpa alla società, ma è chiaro che io ho pagato per una prestazione che non ho ricevuto e ho diritto ad ottenere il rimborso. No, questo... intanto, ma poi abbandoniamo questo tema dei piccoli cestisti, perché ci ha scritto anche un presidente di associazione, immagino sportiva, che polemicamente chiede al 349-238-6666 e già a me chi risarcisce di assicurazione, divise, tesseramento e tutte le spese che ho dovuto sostenere. Lasciamoci con questo dubbio, cara Deborah, perché ci sono moltissime domande ancora sui 600 euro, indovini un po', dottor esatto. Staropoli, sono il tema del giorno. Allora lanciamo una sigla, per favore, Andrea Roccabella, e entriamo direttamente nel tema della giornata. Dov'è il nuovo lavoro? Deborah, fai pure allora, tu gli onori di casa. Sì, ma guarda, partiamo proprio un po' dall'ABC dell'indennità da 600 euro, lo abbiamo ribattezzato il bonus autonomi Staropoli. Allora, il punto è che l'INPS ha erogato quanto più possibile, naturalmente ha erogato a tutte le persone che avevano ed erano immediatamente visibili i requisiti per poter ottenere questo bonus, e poi chiaramente molte pratiche sono ancora in sospeso e queste sono prontamente segnalate anche da molti ascoltatori che ci scrivono, perché l'INPS aveva detto detto tra il 15 e il 18 praticamente metteremo in pagamento tutti gli assegni appunto che dobbiamo erogare per le persone che ne hanno ovviamente diritto. Coloro che sono rimasti fuori, sulla base anche delle rilevazioni che potete fare voi come consulenti del lavoro, appunto, chi è rimasto al momento escluso? Perché risultava qualche giorno fa, un paio di giorni fa, che l'INPS avesse almeno 500.000 pratiche ancora in istruttoria ed altre 250.000 ancora da sistemare, perché c'è l'IBAN in via di correzione in corrispondenza con gli utenti, nel senso che evidentemente chi lo ha trascritto sulla modulistica lo ha scritto anche sbagliato, e quindi magari l'INPS mette in pagamento, il pagamento viene respinto perché non è corrispondente evidentemente alla titolarità della persona interessata. Allora, ci può fare un punto un po' della situazione, quali sono le situazioni problematiche emerse fino a questo momento? Sì, quello che c'è stato un comunicato appunto dell'istituto ieri, quello che è emerso appunto in massima parte, stando alle dichiarazioni ufficiali dell'istituto, ci sono state criticità relative proprio a questo aspetto di indicazione errata dei codici IBAN, che sarà, mi auguro, recuperata dall'istituto con comunicazioni, con lo stesso canale con il quale si accede alla domanda, con comunicazione di rettifica. Anche per la verità delle ammissioni da parte dell'istituto, diciamo, della non immediata possibilità di rispondere dei sistemi informatici a questa enorme, lo abbiamo detto l'altra volta, mole di informazioni, di richieste che è arrivate. E l'ultimo dato che ci portiamo a casa, appunto in queste dichiarazioni che sono provenute dall'INPS ieri, che entro il 30 aprile dovrebbero recuperare e quindi elargire questo importo a tutti coloro che ne hanno diritto. Prendiamoci per buona questa data e speriamo che effettivamente accada così, così come è stato detto. Del resto, anche questo l'avevamo detto l'altra volta, i requisiti per accedere a questa misura delle 600 euro sono piuttosto semplici e di immediato riscontro, quindi i ritardi, è ragionevole pensare che siano effettivamente dovuti a questi problemi tecnici o a questi errori materiali, perché altri calcoli particolari o circostanze da valutare non ce ne sono. Allora, ma in genere, dottor Staropoli, l'INPS, nel caso in cui per esempio riscontri che è un problema di IBAN, è l'INPS che avvisa? Perché molti ascoltatori ce lo chiedono, ma me lo fanno sapere se hanno riscontrato un'anomalia magari nella presentazione domanda, oppure non pagano e basta e noi non lo sapremo mai che cosa è successo? No, allora non lo sapremo mai che cosa è successo, no, perché una volta che, come dicevo prima, si incardina la pratica, la domanda, tutti coloro i quali, ma proprio il principio generale di trasparenza, tutti coloro i quali hanno fatto questa domanda hanno possibilità di accedere e verificare lo stato della domanda. Qualsiasi anomalia, ripeto, siamo di fronte ad un istituto, procedure del tutto innovative, ancora una volta è la prima epidemia che ci capita di, almeno noi viventi, con la quale ci capita di confrontarci, però qualsiasi domanda o istanza che venga inoltrata all'INPS, ci sono degli alert quando si tratta di irregolarità formali di questo genere, quindi l'INPS, come normalmente accade, dovrebbe dare riscontro di queste irregolarità. Tant'è che loro ne hanno preso atto, come da comunicato di ieri, quindi l'attesa e l'augurio, considerata la promessa del 30 aprile, che queste indicazioni, cioè queste segnalazioni, vengono immediatamente trasmesse a ogni interessato in modo da recuperare la lettera, il numero, il codice dell'IBAN errato, da correggerlo sostanzialmente. Ci torniamo tra un attimo, dottor Staropoli. Abbiamo ovviamente, come puoi immaginare, tantissime telefonate, messaggi a SMS, messaggi WhatsApp, però adesso dobbiamo fare un passaggio in borsa, perché, cara Debora, mi pare che oggi invece il capriccio dei mercati sia in senso positivo, cioè vedo dei segni verdi e questo mi fa ben sperare. Allora attendo ansioso. Il petrolio rimane sempre incapricciato, il petrolio rimane sempre incapricciato, te lo dico già. È smorfioso, smorfioso, sia quello là, il WTI, American, sia quell'altro, tutti e due. Vabbè. Oggi vanno d'accordo. Ho capito. Le borse. Tutti questi esperti qua, ma per quale finanze? Le vostre, quelle dei ricconi. Due di denari. Eh, cara Debora, che è successo? Ha fatto i capricci il collegamento questa volta, sì, al posto, esatto, dei mercati. Quindi, non lo so, mi volevano censurare evidentemente. Te la racconti in due secondi, va tutto, sì, bene. Gli indici sono in rialzo di un punto per quello che riguarda il petrolio. Il greggio americano è intorno agli $11 al barile, ieri era sceso molto di più. Il Brent a Londra è scivolato sotto i $17, adesso ha recuperato i 18, ma insomma siamo su livelli mai visti storicamente. C'è ancora un po' di tensione sullo spread, cioè il nostro debito in qualche modo deve pagare interessi migliori rispetto a quello tedesco. Vedo che il dato è ancora in salita, 260 e 61, più. 61, sì, 261, peraltro segnalando che ieri abbiamo avuto due emissioni del Tesoro italiano che sono andate ad investitori istituzionali. Il Ministero dell'Economia ha collocato 10 miliardi di un BTP a 5 anni e 6 miliardi di un BTP a 30 anni, che in realtà era già in circolazione ma è stato riaperto. La domanda per questi titoli è stata di 110 miliardi, per cui in barba allo spread in realtà il mercato degli investitori, il titolo italiano lo chiede, e però insomma chiaramente lo chiede ma a rendimenti più alti evidentemente. È così. Allora, torniamo invece sul tema delle provvidenze, degli aiuti, dei supporti, dei bonus, chiamateli un po' come volete, soprattutto grande protagonista il 600 euro. Siamo in collegamento, come avete sentito, con Pasquale Staropoli, responsabile della scuola di alta formazione dei consulenti del lavoro. Dottor Staropoli, una precisazione di quelle proprio banali, ma tocca farla perché ancora ci scrivono. Chi percepisce una pensione non prende i 600 euro, è rimasta così la regola, non è, sì, mai cambiata. Sì. Ecco, questo, sì, riguarda anche pensioni magari di importo molto basso, perché è quello che poi sollecitano gli ascoltatori, prendono pensioni molto molto basse e si chiedono perché non è stata estesa anche a loro questa forma di tutela. Questa è una scelta del decisore politico, cioè si è ritenuto di individuare determinate categorie con determinate caratteristiche e hanno adottato quella soluzione, però ripeto, non è una a monte quella che è stata la decisione politica, noi ci ritroviamo con la norma. E così come sarà decisione politica naturalmente quella di una estensione di cui continuiamo a sentir parlare ma che ancora non è stata decisa, ancora di una erogazione di 800 euro per il mese successivo. E così, Staropoli, siamo ancora nelle discussioni, ancora sulle ginocchia di Giove, dicevano una volta al liceo. Sì, infatti lei l'altra volta ha catechizzato tutti, attenzione che poi ci chiedono 800 euro, sì, lo leggiamo sui giornali, lo leggiamo per la verità nelle dichiarazioni dei ministri di volta in volta competenti, però al momento aspettiamo questo decreto o la conversione del Cura Italia, questo decreto aprile che forse diventa decreto maggio, aspettiamo di vederlo scritto nero su bianco, sì, però i rumors ci sono. Dottor Staropoli, paradossalmente noi abbiamo ricordato più volte quanta difficoltà ci fosse stata per avere l'accesso all'INPS, soprattutto nei primi giorni, quando ovviamente tutti i potenziali destinatari di questa misura si erano affrettati a fare la domanda, temendo che fosse un click day, temendo appunto che le risorse disponibili si potessero esaurire rapidamente. Ammettiamo che ci sia qualcuno che con pazienza ha aspettato fino ad oggi e dice: sai che c'è, mi metto a fare la domanda, ho rinunciato nei primi giorni, ho fatto fatica. Secondo lei c'è ancora una coda di persone potenzialmente che hanno i requisiti appunto per poterne fare richiesta ma che non l'hanno ancora fatta, ed eventualmente secondo lei conviene, siamo in ritardo, non c'è una questione di tempi, no, mi pare, fino alla fine, allora, di aprile no. Si può fare? Sì, quello si può fare, dubito visto che ci siano, perché chiaramente visto il clamore o perlomeno i riscontri che abbiamo sia personalmente come professionista che comunque come fondazione, come colleghi, utenti che ci seguono, c'è stata letteralmente una corsa sia per questo timore, sia per il timore appunto che i fondi potessero esaurirsi, e sia per insomma, l'esigenza concreta che c'era nella stragrande maggioranza dei casi di trovare comunque un qualche aiuto al sostentamento vista la situazione in cui si era. Non si può escludere, diciamo, l'ipotesi residuale, certo, ripeto, con l'enorme diffusione di notizie che c'è attorno alla questione, probabilmente non è detto che sia granché diffuso, insomma, i soggetti che ancora devono presentare l'istanza, certo. Però Allora, ci sono ovviamente molti che ci chiedono, non ho ancora ricevuto, e per quelli ha già ricordato Staropoli, dobbiamo attendere almeno questa settimana, perché l'INPS assicura di poter esaurire tutte aprile, le pratiche entro il 30 aprile. In dichiarazione di ieri. Do un'altra indicazione di servizio: il sito dell'INPS è stato in qualche modo rinnovato nella sua pagina iniziale, quindi se voi digitate www.inps.it ci sono dei servizi in evidenza, e uno di questi è proprio indennità 600 euro, che spiega la stessa pagina, è un servizio dedicato all'utente cittadino, da lunedì a venerdì dalle 16 alle 8 accesso libero sabato e domenica. Bisogna ovviamente avere la password di quelle, il PIN rilasciato dal dispositivo, o un'identità SPID o una carta d'identità elettronica, però in questo modo è possibile interrogare proprio il sito dell'INPS e avere informazioni via internet sull'andamento della pratica. È un altro dei modi che l'INPS ha messo a disposizione. Prego, Deborah. No, volevo chiedere, Mauro, c'è questa domanda di questo ascoltatore tra gli SMS al 349-238-6666 che ci racconta che ha compilato la domanda online e ha scelto, lui dice involontariamente, come modalità di pagamento quella alternativa al bonifico bancario. Ma mi scusi, dottor Staropoli, ma quante modalità di pagamento erano consentite, erano opzionate nella pratica da compilare? Ha scelto alternativa al bonifico bancario? Dice, ma io mi chiedo quali altre alternative l'INPS possa... Cioè, non credo che ti mandi l'assegno a casa nel caso tu non infatti, disponga di un conto corrente, ma dubito. Infatti. Non vorrei che si riferisse erroneamente... Cioè, alternativa al bonifico bancario, sinceramente, non vorrei che si riferisse alla... Allora, è possibile, per esempio, in campagna di questi giorni la consegna della pensione con la convenzione per il tramite dei carabinieri, sì, ma è una cosa diversa per i pensionati. Certo. Probabilmente avrà inteso adottare anche questo strumento, però sicuramente non è quello più rapido e quello più efficace. Ma infatti, bisognerebbe capire. È una campagna di questi giorni che nella semplificazione, quella che ricordava prima il suo collega, che sul portale dell'INPS in effetti hanno semplificato quella che è stata una circolare dell'INPS con la quale hanno esteso queste modalità di accesso per agevolare, appunto, rendere più rapido e semplificare l'accesso da parte dei cittadini, non soltanto degli operatori professionali. Tra questi c'è questa opzione, ma è, come dire, di risulta per gli utenti più anziani, che chiaramente, penso a una pensionata di 80 anni, 90 anni, che probabilmente non è proprio avvezza a internet, iPad e computer, anche se non è escluso, e quindi ci sono questi strumenti alternativi. Certo, non è consigliato, poi dal punto di vista proprio pragmatico. Allora, ci ha riscritto l'ascoltatore di cui da quale accennava Debora, ci dice: l'alternativa è un assegno da ritirare in posta. Quindi questo... Allora è quello di cui dicevamo prima. Cioè, è un'agevolazione per chi è privo di canali bancari, eccetera. Certo, chi invece ce l'ha, non è esattamente un'agevolazione, ma una complicazione delle modalità. Sì, perché comporta anche il fatto di doversi recare in posta, insomma, certo, già, certo. E quindi con le limitazioni di spostamenti. Scusi, dottor Staropoli, io ho bisogno che lei confuti insieme a me una bufala vera che sta girando da giorni, cioè che i 600 euro sarebbero sottoposti a tasse. Allora, poiché nel decreto è scritto molto chiaramente che sono esenti da imposte, quindi non si pagano tasse, ci vengono dati, se ovviamente abbiamo diritto, 600 euro e non ci pagheremo tasse di alcun genere. Mi aiuta a confutare questa cosa, perché è una di quelle bufale fastidiose che in rete prendono subito il volo. Il burocratese della norma recita che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR bla bla bla, quindi se non concorre alla formazione del reddito non è reddito, se non è reddito non mi viene tassato, quindi 600 euro sono 600 euro fino all'ultimo centesimo, che appunto, come diceva lei, sussistendo i requisiti vengono erogati tutti quanti. Spero con questo di aver dato Deborah un piccolo contributo a rassicurare bene, sì, molti ascoltatori, perché in diversi ci hanno anche scritto dicendo: ma come, io ho avuto anche ho sentito dire che non me li daranno perché ci sono le tasse eccetera. No, no, non c'entra niente questo, non è proprio cosa. Prego Deborah. No, sempre ritornando, non tanto insistendo sul tema della modalità di pagamento che una persona appunto che fa la richiesta del bonus sceglie, ma la domanda, noi abbiamo appunto capito prima che chiaramente se hai scritto l'IBAN sbagliato l'INPS ti chiede ovviamente una correzione, perché altrimenti non ti può accreditare l'importo, ma a parte l'IBAN, dottor Staropoli, nel caso in cui noi abbiamo così la sensazione di aver compilato in maniera sbagliata la domanda, l'INPS la respinge direttamente o si può eventualmente reintervenire sul sito dell'INPS per apportare dei correttivi nel caso appunto in cui ci rendiamo conto che le informazioni che abbiamo rilasciato all'Istituto di Previdenza siano non corrette? No, allora, una volta completato l'iter, chiaramente no, perché altrimenti spezzo una lancia in favore dell'INPS, perché gliene abbiamo dette magari anche a ragione di tutti i colori in questi giorni, però se fosse consentito che ognuno ogni volta dopo che ha compilato la domanda e completata ci ripensa e cambia il civico, è da impazzire. No, è chiaro che nel momento in cui si tratta soltanto di un errore evidentemente materiale come può essere quello dell'IBAN, che verificata la ricorrenza di tutti i requisiti, cioè che non ho altre iscrizioni a forme pensionistiche, che è l'unico reddito perché è l'unica circostanza che mi consente l'accesso a questo strumento eccetera eccetera, e poi c'è materialmente il numerino o la lettera dell'alfabeto dell'IBAN che impedisce la tecnicamente l'erogazione, e allora sarà l'INPS a comunicare questo errore. No, cioè una volta bisogna stare attenti, perché completato l'iter quella domanda parte ed è definitiva, come tutte le istanze. Sì, certo. Allora, è il momento di ascoltare le informazioni sulla viabilità e lo voglio fare segnalando un ascoltatore che è un nostro affezionato ascoltatore, è un tassista che ci scrive da Siena, si chiama Gianluca, e quindi essendo tassista è il personaggio ideale, il mestiere ideale per predisporci al traffico. Ci dice però che lui a Siena ha una palestra che al momento della chiusura ha detto specificamente a tutti coloro che avevano l'abbonamento: i mesi saranno scalati, la validità slitterà in avanti dello stesso tempo per il quale la palestra rimane chiusa. E tutto ciò premesso, caro Andrea, traffico. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato dell'intermediazione immobiliare in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Due di denari. Ma dai, che hanno dato adesso, mi diceva un ragazzo, una multa a sua cognata perché è andata a un supermercato più distante di quello che ha più vicino perché non trovava gli omogenizzati per il bambino. Un amico di mio figlio la settimana scorsa ha preso la multa perché tornando dal supermercato non ha fatto la strada più breve per arrivare a casa sua. Ma vi rendete conto? Ma ci rendiamo conto? Cioè, la Gestapo era forse più morbida. Buongiorno, mi chiamo Mariella, telefono da Palermo. Chiedo di sapere se è previsto qualche aiuto per i collaboratori domestici extracomunitari che per il momento non prestano attività lavorativa e che sono regolarmente denunciati all'INPS e hanno regolare permesso di soggiorno. È chiaro che queste persone non hanno come vivere. Buongiorno, due di denari. Allora, io sono agente di commercio e ho fatto la domanda per il bonus e sul sito, nello stato c'è ancora in attesa di esito, l'ho controllato mezz'ora fa. Grazie, buongiorno. Allora, cara Debora, dimmi. Vorrei fare sfoggio di cultura perché so la risposta per l'ascoltatrice. Però chiamo naturalmente in soccorso. Sì, sì, chiamo in soccorso anche il Tostaropoli. Volte. Allora, non c'è ancora nulla per quanto riguarda le colf regolarmente, diciamo, impiegate, quindi con le loro belle ore denunciate, contributi vorrei versati dal datore. Vorrei dirti che possono essere declinati anche al maschile, sono anche dei collaboratori familiari. Certamente, e queste, per i collaboratori e le collaboratrici familiari non c'è ancora niente, si sta ragionando di una possibile erogazione, lo abbiamo scritto, lo abbiamo detto diverse volte, al momento però non è in vigore alcunché. Qualche giorno fa ne abbiamo parlato anche qui a Due di Denari, qualche giorno fa c'è stato anche un articolo settimana scorsa sul Sole 24 Ore che potete trovare anche sul nostro sito, appunto le varie modalità di così trovare un accomodamento tra il datore di lavoro domestico e il suo collaboratore, la sua collaboratrice. Poi, ma l'ultimo prodotto del Sole invece di che cosa mi parla? No, oggi sono due i prodotti del Sole che ti voglio segnalare, Debora, perché l'uno è quello in edicola oggi, lo mostro a chi ci segue tramite il Facebook ed è Hai imprese... tu il ragazzo del ring oggi. Esatto, imprese e riavvio, come prepararsi, questo è praticamente uno speciale, lo chiamiamo Focus noi nel nostro gergo, lo trovate in edicola oggi con il Sole 24 Ore, i finanziamenti, le modalità di sicurezza, che cosa devono fare i datori di lavoro, che cosa possono chiedere, devono chiedere i lavoratori per quanto riguarda la fase di ripartenza, ma anche la fase attuale per chi ha potuto mantenere l'attività aperta e in funzione. Domani, visto che stiamo ricevendo tantissime domande proprio sui 600 euro e i vari aiuti disposti dal decreto Cura Italia, dal decreto liquidità, vi segnalo che sarà in edicola con il Sole 24 Ore un fascicolo di un'ottantina di pagine con tutta una serie di chiarimenti, sono i chiarimenti forniti dai nostri esperti proprio durante il forum internet e altri chiarimenti ancora lo troverete in edicola con il Sole 24 Ore, decreti Covid-19, domande e risposte. Capisco che il titolo non è di quelli proprio emozionanti, ma che ci volete fare, dottor Staropoli? Purtroppo così ci tocca ragionare in questo momento. Dottore, qui abbiamo tantissime richieste, ad esempio c'è qualcuno che ci chiede, ma il lavoratore stagionale ha diritto a questi 600 euro, ha un aiuto di un'altra natura? Ha diritto ai 600 euro se rientra nei requisiti specifici previsti dal Cura Italia, l'articolo 29. Deve essere un lavoratore che presta la propria attività, cioè la qualificazione di lavoro stagionale non viene così perché lo decide il lavoratore o il datore di lavoro, ma è un lavoratore impiegato nel settore turismo o stabilimenti termali secondo i codici previsti e l'inquadramento. Deve essere sostanzialmente un disoccupato involontario e, come recita il periodo individuato dalla norma, e questa disoccupazione deve riguardare il periodo dal gennaio 2019 al 17 marzo, evidentemente l'entrata è stata scelta l'entrata in vigore della norma. Non deve essere titolare di pensione, non deve avere un altro rapporto di lavoro, questi sono i requisiti che sono validi per tutti gli altri percettori della indennità di 600 euro. La specificità appunto dello stagionale è questa, cioè la riconducibilità alla classificazione di lavoro stagionale come per legge è il fatto che sia disoccupato involontariamente in questo lasso di tempo previsto tra il 1 gennaio e il 17 il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo di quest'anno. Vorrei allargare, Debora, il tema a un'altra serie di domande che ci sono arrivate, che ci stanno sempre arrivando, cioè il reddito di ultima istanza, che poi sono sempre 600 euro ma erogati dalle casse professionali, dalle casse dei professionisti. Allora, qui c'è stato una sorta di chiusura successiva nella norma, perché inizialmente non si era posto un limite che poi invece è stato inserito, cioè si è detto che se si è in presenza di una doppia iscrizione alla cassa professionale, cioè si versano i contributi lì, ma si versano contributi anche in un'altra gestione, allora non si ha diritto a questo reddito di ultima istanza. Sì. Mi conferma, dottor Staropoli? Sì, al momento la posizione è questa. È vero che c'è stato questo giro di vite che ha disorientato un po' sia chi richiedeva che le casse che dovevano gestire le domande. Sì, è stato chiarito che l'iscrizione alla cassa di previdenza professionale, sostanzialmente di appartenenza a proprio ordine, deve essere esclusiva. Allora, qualche ascoltatore ci scrive: ho ricevuto i famosi 600 euro proprio in questi giorni, qualcuno ci scrive ho ricevuto l'altro ieri, quindi questo a conferma di quanto vi stavamo segnalando, cioè che le erogazioni continuano, è stata esaudita una buona parte delle richieste, ma altre ancora stanno proseguendo. Abbiamo anche degli ascoltatori in linea, vedo che c'è in linea Stefano che ci chiama da Milano per sé e per la moglie, se comprendo bene dal messaggio mandato dal centralino. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Stefano. Dunque, volevo riportare brevemente la nostra esperienza. Noi abbiamo fatto la richiesta subito, il primo giorno mi sono collegato molto presto e sono riuscito a fare la richiesta. Al momento né io né mia moglie abbiamo ricevuto questi famosi 600 euro. E ho provato tantissime volte a chiamare il numero indicato dal numero telefonico indicato dall'INPS, ma è impossibile ottenere la linea. E collegandosi online, dopo le 16, la sì. Domanda risulta accolta, il l'IBAN risulta corretto, ma ecco. Ancora non si vede il benefico bonifico, per fare un gioco di parole. No, per cui penso che l'INPS dovrebbe essere più chiaro, perché detto così sembra che il ritardo sia dovuto agli IBAN non corretti, ma credo che invece ci siano molte persone in questa Stefano, situazione. Non voglio naturalmente fare un interrogatorio in diretta, voi ritenete di avere esattamente tutti i requisiti previsti dalla normativa, non avere assolutamente, vincoli? Assolutamente, noi abbiamo una, peraltro aggiungo brevissimamente, una piccola attività a Milano, alberghiera, e scopriamo questa mattina anche che stiamo chiedendogli invece l'affido dei 25.000 euro, probabilmente saremmo esclusi anche da questo perché abbiamo già chiesto un credito più di un anno fa per delle ristrutturazioni, quindi di fatto non rientreremo neanche in questo. Allora, guardi, su questa seconda parte la rimando a una delle prossime trasmissioni nostre, perché abbiamo intenzione di andare proprio su questi dispositivi, soprattutto questo prestito fino a 25.000 euro. Ora è diventato famoso come il 25.000 euro, ma in realtà è un prestito fino a 25.000 euro. Ce ne occuperemo sicuramente in una delle prossime puntate. Staropoli, qui dobbiamo solo aspettare il 30 aprile, credo. Stefano dovrà avere pazienza ancora qualche giorno. Sì, se l'ascoltatore, come ha detto, cioè, risulta anche sostanzialmente la pratica a buon fine, è una questione solo di tempo e di evasione della pratica stessa. Certo, giustamente, come diceva lui, non è vero che il ritardo è dovuto soltanto agli errori. Probabilmente ci saranno stati degli errori, probabilmente ce ne saranno stati anche in misura significativa, considerato anche che ogni volta parliamo di decine di migliaia di istanze, però è chiaro che anche chi ha compilato tempestivamente in maniera puntuale la domanda come l'ascoltatore purtroppo finisce nella massa enorme di dati e non è detto che venga la sua pratica evasa subito. Ripeto, al momento fidiamoci delle nostre istituzioni, l'INPS ci dice che per il 30 aprile liquiderà tutto, vediamo, stiamo ad aspettare. Allora Deborah, insomma, bisogna fare un esercizio di pazienza particolare in questi giorni, vero? No. Evidentemente sì, intanto mi avete ripristinato come collegamento? Sì, ti abbiamo perduta per qualche minuto forse, o io ti ho zittito pigiando qualche pulsante sbagliato? No, perché vedo che Andrea Roccabella non mi sgrida. Abbiamo ancora un minuto, che cosa vuoi chiedere ancora al dottor Staropoli, che comunque avete preghiamo sentito di restare a disposizione? Gli ascoltatori li abbiamo sentiti entrambi, Roberto. Abbiamo sentito solo Stefano, non abbiamo sentito Roberto. Vuoi sentire la voce di Roberto? Proviamo a sentire, insomma, il grido di dolore che lancia l'ascoltatore da Bologna. Roberto, benvenuto. Sì, sono Roberto? Io. Sì, prego. Sì, è lei. Buongiorno a tutti. No, io semplicemente volevo dire che i 600 euro li ho ricevuti anche in tempi relativamente brevi, perché soltanto con qualche giorno il mio commercialista me li ha fatti ottenere, se non che il giorno dopo in banca è arrivato l'addebito di 4.400 euro di imposte e tasse. E mi sembrava così un po'... volevo segnalare questa cosa. Che non hanno usufruito evidentemente di alcuna sospensione. No, nulla assolutamente. Beh, sono i contributi dei miei dipendenti, i miei anche sicuramente, però quindi, mi sembrava così quindi significativo segnalare questa cosa. Contributi, quindi la voce contributiva è il costo del lavoro, come si dice. Temo, vedo che, anzi sento che Andrea mi hai lanciato la sigla di chiusura, la nostra sigla, il che vuol dire che abbiamo esaurito il tempo? Ah, è proprio così. Allora, Deborah, per sì, oggi ci fermiamo, però io inviterei sempre il dottor Staropoli a restare a disposizione, a non lasciare il paese, se sei d'accordo. Con piacere. Molto volentieri. Piacere. Senti, segnalo solamente al volo un messaggio arrivato adesso di un ascoltatore, un consulente finanziario, che chiede se rientrano fra i beneficiari. Sì, sul sito dell'ANAS trovate tutte le informazioni, ma io le segnalo all'iscritto all'ANAS, come a tutte le associazioni di categoria. Guardate che le vostre organizzazioni vi sanno dare delle informazioni prima di scrivere alla radio. Secondo me potete anche cercare delle informazioni presso i vostri canali diretti. Io lo preferirei, insomma, fossi una professionista di qualunque settore. Va bene, vi ringraziamo comunque di tutti i vostri messaggi, restate in linea, le nostre puntate sono sempre disponibili su www.radio24.it. A domani!